Tutto è pronto a Pontida per il discorso di Bossi domenica 19 giugno. L'inchiesta sulla cosiddetta P4 scuote i palazzi della politica. No TAV, 65 avvisi di garanzia, crisi, Grecia, rimpasto di governo, Venizelos, ministro delle finanze. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi e dalla redazione di Radio 24. C'è dunque attesa per il discorso di Umberto Bossi a Pontida domenica 19 giugno. Non è certo se parlerà solo il leader del Carroccio, probabilmente potrebbero parlare anche altri leader della Lega. Sentiamo qual è la situazione da Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Pontida è sempre importante per la salute della Lega, a dirlo il ministro degli interni Roberto Maroni. Si diranno tante cose che certamente influiranno sulla scena politica, perché la Lega è sempre determinante, ancora una volta gioca un ruolo da grande protagonista. A parlare, come hai detto tu Daniele, dovrebbe essere solo Umberto Bossi, ma Maroni spiega: decideremo all'ultimo momento, non abbiamo un cerimoniale così rigido che si definisce giorni prima, siamo gente del popolo. Ottimista il ministro Saverio Romano, che spiega: a Pontida Umberto Bossi spiegherà ai suoi che il governo ha il lavoro per realizzare le riforme e risollevare la nostra economia alleggerendo la pressione fiscale. Ma questo ottimismo sembra contrastare con quanto successo ieri dopo il Consiglio dei Ministri, quando sulla durata del governo proprio il ministro degli interni Roberto Maroni ha lanciato un ultimatum davanti al premier Silvio Berlusconi: deve ascoltare appunto quello che diremo a Pontida. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. La politica deve lasciarsi contaminare dai nuovi colori dei movimenti, dal popolo, la moltitudine che si è messa in marcia. Lo afferma in un'intervista oggi a Repubblica Roberto Saviano, lo scrittore sotto scorta, analizzando i risultati delle tornate elettorali, sottolineando che il fatto che non ci sia un percorso definito, un solo e unico programma, ha un sapore rivoluzionario. Per lo scrittore sta avvenendo una sorta di mutazione dell'indifferenza. Intanto a Napoli in queste ore questa mutazione si comincia a vedere, perché De Magistris ha avviato tra ieri e oggi le prime misure su ambiente e mobilità. L'ha voluta la bicicletta e ora, vista l'impegnativa situazione, deve indiscutibilmente pedalare. Ma lui di bici in realtà ne vuole tante altre. Lui è Luigi De Magistris, fresco sindaco di una città magnifica e dannata che attende o miracolo. E per iniziare a dare ai napoletani segnali concreti, oltre a incominciare a mettere mano al disastro dei rifiuti, l'ex magistrato ha deciso di dare un bel taglio alle famigerate e contestate auto blu, che rappresentano per il nostro paese un indiscutibile primato mondiale, seppure in progressivo calo. E in che modo intende farlo? Le ruote da 4 a 2. E così dal cilindro di De Magistris salta fuori una nuova razza di mezzo di locomozione istituzionale, la bici blu. Già, il neosindaco, parlando ai consiglieri comunali nella prima seduta di consiglio, ha annunciato che nell'ottica del rispetto ambientale e dei tagli alle spese della politica è più appropriato utilizzare solo i mezzi a disposizione dell'amministrazione e interrompere i contratti che vedono il comune noleggiare le auto destinate ad assessori e dirigenti. Dunque, tutti in carrozza, in bicicletta, con l'aiutino però di un motore elettrico che dia, per così dire, un certo impulso sulla via del lavoro. Un modo originale di unire in un sistema organico ecologia, economia, etica e forma fisica, con assessori e dirigenti napoletani che sgambetteranno per la città senza inquinare e a costi assai ridotti, tonificando nel contempo gambe e addominali e allenando il fiato a prova di sedute comunali. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'inchiesta sulla P4 sta scuotendo i palazzi della politica, in particolar modo Palazzo Chigi. Sentiamo le ultime novità da Andrea Viali in diretta. Sì, Daniele, dall'ordinanza di custodia cautelare trapelano nuovi particolari sui personaggi coinvolti in questa inchiesta, in particolare sulle amicizie, sulle frequentazioni del deputato del PDL Alfonso Papa, di cui sappiamo è stato chiesto l'arresto. A quanto pare l'ex magistrato poteva contare su legami importanti non soltanto nella magistratura, ma anche con i vertici della Guardia di Finanza, con l'ex capo del SISMI Niccolò Pollari e con Pio Pompa, che era il collaboratore di Pollari accusato di aver gestito un archivio segreto con dossier su politici, imprenditori, giornalisti e magistrati. Queste relazioni sarebbero state confermate nel primo interrogatorio anche da Luigi Bisignani, il faccendiere ben introdotto a Palazzo Chigi, che per gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo centrale in quella che ritengono una vera e propria associazione a delinquere, che gestiva notizie riservate, appalti e nomine. Il caso naturalmente sta scuotendo, come dicevi, il mondo politico, in particolare la maggioranza, perché fra le amicizie di Bisignani c'è anche il sottosegretario Gianni Letta, che però nega di aver mai ricevuto da lui informazioni riservate, e ieri nel Consiglio dei Ministri il Premier Berlusconi ha espresso piena solidarietà a Letta e si è detto amareggiato e preoccupato per la situazione che si è venuta a creare con l'inchiesta su questa cosiddetta P4, Daniele. Bene, grazie ad Andrea Viali per queste ultime notizie sull'inchiesta, sull'ultimo stralcio inchiesta tra rapporti politica-massoneria, e noi siamo collegati con Stefano Folli. Buon pomeriggio, Folli. Allora cominciamo esattamente da dove avevamo iniziato il nostro racconto, cioè dal discorso che terrà tra poche ore, quindi esattamente domenica, Umberto Bossi. La Lega è secondo te dunque ad un bivio? Sì, è a un bivio ed è un bivio cruciale. Non mi sembra però che Bossi abbia le idee molto chiare. Forse questo è l'elemento che colpisce veramente, al di là di tutto il resto, cioè il fatto che il leader, che è sempre stato molto lucido e molto capace nel corso della sua vita politica di anticipare i tempi, questa volta è imbarazzato, è incerto, sente molto la pressione della base, sente molto lo scontento e il malessere del suo elettorato, ma non sa esattamente cosa fare, perché rompere l'alleanza con Berlusconi comporta una serie di conseguenze e ha delle controindicazioni per la Lega, e poi soprattutto il fatto che Bossi e Berlusconi ormai hanno un legame vero. Bossi sa benissimo che la caduta di Berlusconi comporterà presto o tardi, e più presto che tardi, anche la sua caduta personale, come porterebbe alla conclusione della sua carriera. Quindi Bossi è incerto, io penso che farà un discorso molto, molto forte, molto duro nei toni, molto perentorio, cercherà insomma di interpretare un po' questa irrequietezza della sua base, ma non porrà un termine definitivo e ultimativo alla presenza della Lega nel governo, per cui dal punto di vista strettamente politico forse qualcuno dirà che non è successo nulla. Questa nuova inchiesta sulla P4 può incidere sui rapporti politici all'interno della maggioranza? Questa inchiesta, noi siamo garantisti, quindi vedremo che cosa succederà, come si tradurrà anche dal punto di vista processuale, se ci sarà un processo un domani, però è abbastanza inquietante quello che si sta leggendo in questi giorni, in queste ore, nei verbali dei magistrati. Guarda, io ti do questa risposta: a me sembra che questa vicenda dal punto di vista politico sono le tipiche cose che succedono, un assetto politico si sta esaurendo. Si esaurisce e emerge tutto questo. In condizioni normali, con un quadro politico molto forte, probabilmente Berlusconi sarebbe stato in grado di evitare che questa vicenda esplodesse come sta esplodendo. Sta succedendo invece, ed è il sintomo inequivocabile che un equilibrio si sta consumando. Quindi la risposta per quanto riguarda le ricadute sugli equilibri politici è sì, ci saranno delle ricadute, ma soprattutto perché è la conferma che il quadro in cui si è vissuto in questi anni si sta lentamente esaurendo, con tutte le incognite che questo comporta. Grazie a Stefano Folli, in diretta su Radio 24. Indagato è il numero 2 dell'antimafia, Alberto Cisterna, accusato da un pentito. È indagato per corruzione in atti giudiziari il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Alberto Cisterna, tirato in ballo da un collaboratore di giustizia. Il fascicolo a suo carico è stato aperto dalla Procura di Reggio Calabria, coordinata da Giuseppe Pignatone, dove Cisterna è stato PM prima di essere trasferito alla DNA. A fare il nome del magistrato è stato il neopentito Antonio Lo Giudice, che dopo essere stato arrestato lo scorso ottobre si è accusato di aver organizzato gli attentati contro i procuratori di Reggio, Pignatone e Di Landro. Dell'inchiesta, affidata questa volta alla procura di Catanzaro, è emerso che si era trattato di un gesto di vendetta per un mancato trattamento di favore che Lo Giudice si aspettavano nei confronti di uno dei fratelli che era finito in carcere e sperava di uscirne in virtù della conoscenza con alcuni magistrati, tra cui proprio Cisterna, che per questa vicenda non è indagato. Adesso viene tirato di nuovo in ballo, dice il pentito Antonio Lo Giudice. Per quanto riguarda la scarcerazione di mio fratello Maurizio, l'altro fratello, Luciano, ne parlò con Alberto Cisterna, che poi, dopo aver avuto buon esito, mi disse che gli aveva fatto un regalo e mi fece intendere soldi, molti soldi. Queste dichiarazioni hanno fatto scattare l'inchiesta d'obbligo che dovrà appurare l'attendibilità delle dichiarazioni del neopentito. Dell'inchiesta è stato informato il Consiglio Superiore della Magistratura e il Procuratore Generale della Cassazione. L'indagine adesso dovrà in particolare fare luce sulle modalità della scarcerazione di Maurizio Lo Giudice, che si trovava nel carcere di Paliano a Frosinone, riservato ai collaboratori di giustizia. Dovranno essere verificati i tempi e le cause della scarcerazione. E intanto il Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso, precisando che si tratta di accertamenti dovuti, sottolinea la propria fiducia nei confronti delle indagini. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono 65 gli avvisi di garanzia che complessivamente hanno raggiunto esponenti del movimento No TAV negli ultimi giorni. Gli ultimi 5 sono stati notificati questa mattina. Tra gli indagati nell'inchiesta c'è anche Beppe Grillo. Sempre oggi è stata perquisita l'abitazione di Alberto Pirino, uno dei leader storici dei No TAV, mobilitato per impedire l'avvio dei cantieri per lo scavo del tunnel per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. Lo ha raggiunto per noi Romolo Napolitano. Mi hanno consegnato un avviso di garanzia e sono andato a fare una perquisizione in casa, cercando una motosega e poi documenti sul TAV. Una motosega? Sì, forse perché abbiamo fatto le barricate, qualcuno ha tagliato degli alberi. Cosa le viene contestato in particolare? Il fatto che ho fatto resistenza pubblico ufficiale verbale, nel senso che ho invitato tutti a venire alla Maddalena a non farli entrare. Cosa cambia adesso nel fronte No TAV? I No TAV sono un po' più arrabbiati per queste cose qui, ma non è un problema questo. Per me loro hanno fatto un autogol. Vede, la faccenda è questa, la Procura della Repubblica di Torino, tutti questi avvisi di garanzia, queste notifiche, sono tutte firmate dal Procuratore Generale Caselli, perché evidentemente i suoi sostituti non avevano nessuna intenzione di esporsi a farlo. Perché vedete, quando improvvisamente, dopo un anno e mezzo che sono successi dei fatti, lo stesso giorno si raccolgono tutte queste accuse e vengono confezionate bene, passandole prima alla stampa e poi ai diretti interessati, si può dire che c'è una, diciamo, una giustizia a orologeria che combinazione esplode proprio sempre al momento giusto, no? D'altronde il procuratore Caselli è molto vicino al PD, il PD è molto caldo su queste cose, quindi... 13, 16 minuti e 37 secondi, tutto è pronto a Pontida per il discorso di Bossi domenica 19 giugno. Inchiesta sulla P4 scuote Palazzo Chigi, No TAV, ci sono stati 65 avvisi di garanzia, la crisi in Grecia, il rimpasto di governo, Venizelos è stato nominato ministro delle finanze. Donc la France et l'Allemagne ensemble nous soutenons de toutes nos forces. La Francia e la Germania unite sostengono con tutte le loro forze l'euro. Quella che sentite è la voce di Sarkozy, quella che sentite alla fine del vertice con la cancelliera tedesca Angela Merkel. I due leader hanno chiesto un secondo piano di salvataggio per la Grecia in tempi brevi, hanno auspicato il coinvolgimento volontario dei privati nel piano di salvataggio e hanno rimarcato come anche la Grecia dovrà continuare a fare la sua parte per vedere la fine della crisi. E poco fa sempre Sarkozy e la Merkel hanno detto che la Francia e la Germania sostengono la nomina di Mario Draghi a presidente della Banca Centrale Europea, ma due italiani hanno sottolineato nel comitato esecutivo della Banca Centrale non sarebbe una soluzione europea. E lo ha detto in particolar modo Sarkozy a nome anche della Merkel. Sulle posizioni ai vertici della BCE l'Italia, secondo Sarkozy, ha dato la sua parola e non ho alcun motivo di dubitare della parola dell'Italia, ha detto Sarkozy. Intanto per quanto riguarda la Grecia, il primo ministro Papandreou nominerà l'attuale ministro della difesa Venizelos come nuovo ministro delle finanze. Insomma, stiamo parlando del rimpasto di governo in uno dei luoghi dove la crisi economica si è fatta più forte e più forte sentire. Noi siamo collegati con Vittorio Darold. Buon pomeriggio. Cos'è questo rimpasto? È un modo per dare un segnale politico all'Europa, al mondo, che qualcosa sta cambiando? Cioè, è facciata o è sostanza? No, è semplicemente un tentativo di Papandreou, che ha cercato di aprire alla opposizione di centrodestra, quella di Antonio Samaras, per fare un governo di unità nazionale, ma quando si è visto chiudere la porta in faccia, perché questa posizione è fallita, non c'è stato accordo, ha dovuto quindi ritornare sui suoi passi e cercare di fronte comune con i cosiddetti ribelli del suo stesso partito, il Partito Socialista, il PASOK. E per fare questo, a questo punto, ha dovuto togliere un tecnico, come era appunto il ministro delle finanze uscente, e mettere appunto Venizelos. Venizelos è stato il suo grande competitor nel 2007, quando ci fu appunto la lotta per chi dovesse sfidare Kostas Karamanlis, quindi chi doveva diventare il candidato e segretario del partito del PASOK. Venizelos quindi è un peso massimo del partito interno, che ha praticamente circa il 40% insomma del partito si rifà a lui, e quindi Papandreou ha dovuto in qualche modo dire uniamoci, confrontiamoci quindi al nostro interno, diamo maggior vigore alla nostra forza di governo, e a quel punto, grazie a questa rinnovata unità interna, noi andremo a fare quel voto di fiducia che prevede 28 miliardi di nuove aumenti di tasse, tagli e privatizzazioni da qui al 2015. Quindi la parola è passata da un tecnico a un politico. Purtroppo Lukas Papademos, che era l'altro nome che si faceva, che sarebbe stato molto gradito all'Unione Europea, perché è stato vicepresidente della Banca Centrale Europea con Jean-Claude Trichet, non è riuscito a passare il veto politico, le esigenze interne hanno prevalso. Grazie Vittorio Darold, in diretta su Radio 24. Intanto il mercato dell'auto in Europa torna in segno positivo a maggio. Nei 27 paesi dell'Unione Europea le nuove immatricolazioni, secondo i dati diffusi dall'ACEA, sono salite del 7,6%, immatricolazioni in rialzo in Germania più 22%, Francia più 6,1%, Italia 3,6%, mentre il mercato segna rosso in Spagna meno 23,3% e Gran Bretagna meno 1,7%. È peggiorato lo stato di salute di uno dei bambini intossicati dopo aver mangiato l'hamburger nella regione di Lille, nel nord della Francia. Lo ha detto il ministro della Sanità Bertrand, precisando che i sanitari dell'ospedale lo hanno sottoposto a dialisi durante la notte. Il ministro Fazio questa mattina ai microfoni di Alessandro Milano ha annunciato che oggi mangerà hamburger per rassicurare i consumatori italiani. Quella marca lì in particolare, io in attesa della verifica, per eccesso di precauzione starei tranquillo, ma noi tra l'altro non sappiamo se viene proprio dalla carne oppure dalla filiera, ovvero sia se il batterio non si è poi sviluppato, questi batteri ci sono, ma in condizioni di cattiva conservazione o di situazioni particolari si possono poi sviluppare in maniera da creare dei problemi. Se io la tengo in freezer posso consumarla quella stessa carne? Guardi, le dico una cosa, sì. Se la cuoce bene almeno 3-4 minuti a 70 gradi compreso l'interno si può consumare qualsiasi, non anche c'è problema. Se ci fossero i batteri non c'è nessun problema. Non c'è problema. Comunque l'importanza è di tranquillizzare, di stare tranquilli insomma gli italiani su questo tema. Oggi mangerò hamburger. Oggi lei mangerà hamburger. Sì. Cotto 3-4 minuti però. Cotto 3-4 minuti a 70 gradi. È prevista per oggi la firma dell'accordo tra l'Italia e il Consiglio Nazionale Transitorio Libico per la gestione dei flussi di rifugiati verso il nostro paese. Ieri l'annuncio di un'azione diplomatica italiana per prevedere anche un ruolo dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati aveva provocato la reazione che ha negato ogni coinvolgimento in eventuali respingimenti. Qualche preoccupazione arriva anche per il decreto legge presentato ieri che allunga i tempi di permanenza nei CIE. Paolo Piacenza ha intervistato Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato ONU. No, noi non siamo stati coinvolti in questo accordo né nella riunione di oggi che si tiene a Napoli, dunque non abbiamo elementi per poter commentare questo accordo. Quello che sappiamo però è che non siamo in nessun modo, come dire, interessati a prendere parte a azioni di contrasto e di respingimento in mare. Dunque questa è la nostra posizione, tanto più che oggi dalla Libia sono scappate oltre 1 milione di persone verso i paesi confinanti, principalmente la Tunisia e l'Egitto, paesi che stanno vivendo una delicata fase di transizione ma che hanno voluto tenere le frontiere aperte ottemperando ai loro obblighi internazionali. E va anche detto che attraverso il Mediterraneo per giungere in Italia sono arrivate 18.000 persone, quindi meno del 2% del numero dei fuggiaschi. Dunque noi ci aspettiamo che ci sia un impegno da parte appunto della comunità internazionale, dell'Italia e dell'Europa a rispettare gli obblighi internazionali, cioè quelli del non respingimento, come stabilisce la Convenzione di Ginevra del 1951, di cui fra pochi giorni si celebra il 60° anniversario. In merito invece alla possibile apertura di un ufficio a Bengasi, di cui ha parlato ieri sera a Berlino il ministro Frattini, proprio dell'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU, voi cosa potete dire? Noi stiamo infatti in questo, sì, lavorando con il Consiglio Transitorio e in questo senso, cioè siamo presenti a Bengasi. Stiamo adesso fornendo gli aiuti alle popolazioni che hanno bisogno di assistenza. Dopodiché è chiaro che stiamo sviluppando anche una presenza in questa parte del paese. Voi lunedì come Agenzia per i Rifugiati sarete a Roma per la commemorazione della Giornata Nazionale del Rifugiato. Quali sono i temi che sono sul tappeto per questa celebrazione? Beh, intanto l'Alto Commissario Antonio Guterres quest'anno ha deciso di celebrare questa giornata a Roma e lancerà in anteprima mondiale il rapporto statistico sui rifugiati nel mondo la mattina a Roma, di ritorno dalla sua visita a Lampedusa che si terrà di ritorno alla sua visita in Tunisia, dove si trova adesso l'Alto Commissario. Poi il 20 pomeriggio ci sarà una celebrazione, una cerimonia istituzionale alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, in cui appunto celebreremo i 60 anni della Convenzione di Ginevra, proprio a ribadirne l'attualità e l'importanza. Voi potete esprimere o dovete o volete esprimere una valutazione in merito al nuovo decreto sulla gestione dei CIE che è stato presentato ieri in Consiglio dei Ministri? Beh, diciamo che aver prolungato la detenzione da 6 mesi a 18 mesi è sicuramente qualcosa che peserà molto sui migranti. C'è da chiedersi fino a che punto renderà più facile l'identificazione degli stessi, perché se le autorità consolari non sono disponibili a farlo in 6 mesi, veramente sorge il dubbio rispetto a quanta disponibilità potrebbero avere su un periodo più lungo. Quello che sappiamo però è che la capienza dei CIE è limitata a circa 2.000 posti e quindi questo prolungamento dei tempi causerà sicuramente più difficoltà, sovraffollamento e quindi una gestione molto più complessa. Sono le 13:26 minuti e 59 secondi, vi saluta Daniele Biacchessi, era il racconto della giornata al momento di quello che è accaduto in Italia e nel mondo secondo Radio 24. Le prossime notizie alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.